Mi pare evidente che siamo di fronte ad una scelta chiara del centro moderato che però deve essere esplicitata. Esplicitata in Parlamento? Sì, secondo me bisogna farlo in Parlamento, bisogna costringerli al voto, ad assumersi pienamente le responsabilità. Come si vede, quando le gerarchie ecclesiastiche chiama, il centro moderato risponde. E mi pare evidente che siamo di fronte anche al tentativo di evitare la possibilità di una redistribuzione sociale, di una svolta. Ci sono risorse ingenti che forse si vogliono regalare alle classi più abbienti e non ai lavoratori e alle lavoratrici.